Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, una buona giornata a voi tutti. Allora, in questi giorni la cronaca finanziaria, che analizza con particolare attenzione le storie di Piazza Affari, ha acceso i riflettori su quanto sta accadendo ad un'azienda italiana molto nota in tutto il mondo, Mariella Burani Fashion Group. Il gruppo sta ristrutturandosi, almeno tenta di farlo dal punto di vista finanziario, ma a quanto pare gli sforzi non porteranno a molti risultati. Tra l'altro, l'apprensione intorno alle sorti del gruppo sono aumentate dopo che Medio Banca, che dalla primavera dello scorso anno è stata a fianco della società nella rinegoziazione del suo debito, ha rimesso da dicembre il suo mandato di consulenza proprio finalizzato a rinegoziare l'esposizione con oltre 40 banche. Una decisione che è stata presa probabilmente con difficoltà, ma pare a causa delle ambiguità della famiglia Burani, da un lato sempre dichiaratasi pronta a ricapitalizzare l'azienda, senza però averlo fatto fino a questo momento. Di fatto, a parte l'evoluzione appunto della vicenda che prosegue, vi daremo tra un po' anche le ultime notizie. Di fatto, appunto, le azioni della società quotata sono sospese dal 28 agosto e di questa situazione ci stanno chiedendo chiarimenti alcuni ascoltatori che sono piccoli azionisti di questo gruppo. E però questa situazione ci ha suggerito anche di proporvi una trasmissione a più largo raggio, a 360 gradi, per parlare di un fenomeno più ampio, quello del delisting, per esempio, cioè quell'operazione che porta le società quotate ad essere cancellate dalla borsa con operazioni del tutto regolari, ma che spesso non raggiungono i diretti interessati, cioè i piccoli azionisti. Operazioni che a volte vengono fatte anche provocando delle perdite significative per chi possiede le azioni. Insomma, partendo dal caso Burani, che, lo preciso, è sospesa ma non delistata, e quindi faremo anche chiarezza sulla terminologia che utilizziamo, perché so che voi avete sempre bisogno anche di essere confortati in questo senso, e rimpercorrendo anche quello che è accaduto nel passato recente, in particolare negli ultimi 2 anni, cercheremo di spiegare ai nostri ascoltatori anche come bisogna passare in rassegna le informazioni finanziarie per intercettare, prima che avvengano, queste operazioni straordinarie che possono condizionare anche il portafoglio titoli dei piccoli azionisti. Allora, come vi spiegheremo tutto questa mattina, ovviamente con due persone che ne sanno molto. Intanto la nostra Valeria Novellini, analista finanziario dell'Ufficio Studi del Sole 24 Ore, a cui negli ultimi 2 anni non è sfuggita nessuna operazione straordinaria di Piazza Affari, appunto, che ha portato alla cancellazione di diverse società. Valeria, ciao, bentornata, Salva Danaio. Salve, buongiorno a tutti. E poi ringrazio di esserci venuto in soccorso questa mattina anche l'avvocato Maurizio Bernardi, partner, socio fondatore dello studio Pirola Penuto Zei e Associati, che è uno studio di consulenza legale tributaria, segue diverse operazioni rientranti proprio nell'ambito della finanza straordinaria. Ma l'avvocato Bernardi è anche docente di Merchant Banking all'Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Avvocato, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti, grazie a lei. Naturalmente siamo come sempre assolutamente disponibili alle vostre osservazioni, alle vostre domande sull'argomento. 800 24 00 24 è il numero che potete utilizzare. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. La borsa questa mattina. Allora, ieri abbiamo avuto di nuovo Wall Street sui massimi da 15 mesi a questa parte, riflettori puntati in questi ultimi giorni sulle numerosissime trimestrali che stanno arrivando, in particolar modo su quelle bancarie. Ieri non è piaciuta particolarmente agli analisti quella di Citigroup. Oggi abbiamo Bank of America, ma ne abbiamo anche tante altre, abbiamo Morgan Stanley, Wells Fargo, abbiamo eBay, quindi dagli Stati Uniti arrivano ancora conti societari, e sono questi i temi che traineranno sicuramente la seduta. Il greggio è tornato sotto i $78 al barile, il Brent a Londra è a 77, quindi un pochino il petrolio sembra essersi calmato. Di fatto oggi però l'Europa viaggia in negativo con ribassi di circa lo 0,2%, a Parigi e a Francoforte, Londra perde un po' di più, meno 0,36%, Milano ancora di più, sta perdendo mezzo punto percentuale sul FTSE MIB. I migliori titoli oggi bene nel settore del lusso, con Bulgari che guida i progressi di Milano, più 1,85%, STM più 1,70%, ancora sta beneficiando di questi dei risultati che sono stati presentati da Intel la settimana scorsa negli Stati Uniti, l'Ottomatica più 1,54%, recupera anche Geox più 0,68%, e l'effetto Bulgari si fa sentire anche su Luxottica, che guadagna mezzo punto percentuale. Ha presentato il suo piano industriale, ma a quanto pare al mercato non piace molto. La Banca Popolare di Milano che perde 2 punti, Ne perde due anche Finmeccanica, Prismian -1,35. Abbiamo un ribasso di un punto per Impregilo e per Unicredit. Continua invece a rimontare il dollaro sull'euro. Il rapporto di cambio adesso è a 1,41,61. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, partendo dal caso Burani. Sentiamo un po' quali sono le operazioni straordinarie di Piazza Affari e quanto costano a volte ai piccoli azionisti. Soltanto qualche anno fa erano molte le società pronte a bussare alla porta di Piazza Affari. La ricerca di liquidità per finanziare il proprio sviluppo, garantita in parte dall'elevato interesse degli investitori e la crescente visibilità, erano motivi più che sufficienti per quotarsi. Ultimamente, girato il vento sui mercati finanziari, la situazione sembra essersi ribaltata e la fila di coloro che hanno deciso o dovuto abbandonare la borsa è aumentata mese dopo mese. Proprio i pesanti crolli subiti dalle quotazioni hanno spinto gli azionisti di maggioranza, in particolare delle piccole imprese e medie società, a considerare l'ipotesi di rientrare nel pieno possesso delle azioni con l'inevitabile ritiro dal listino anche a prezzo di sconto. Un aspetto, quest'ultimo, che inevitabilmente va a colpire anche i piccoli risparmiatori che un tempo, cioè in fase di quotazione, avevano creduto nelle possibilità di sviluppo e quindi di guadagno delle matricole. Bisogna infatti considerare che in Italia mancano norme che regolino il delisting. Non ci sono, ad esempio, indicazioni sulla tempistica precisa della revoca del titolo e soprattutto non c'è alcun obbligo di prezzo dell'offerta pubblica d'acquisto, operazione mediante la quale avviene il delisting, in relazione a quello del collocamento iniziale. Ne deriva che in molti casi il prezzo offerto può risultare decisamente inferiore a quello originario. E se ne accorgono infatti anche gli azionisti che detengono in portafoglio questi titoli. Allora, io comincerei intanto con il caso Burani, anche se è una situazione, come dicevo, in piena evoluzione, non c'è ancora. Leggo le agenzie delle ultime ore, una proposta formale alle banche da parte della famiglia per ricapitalizzare Mariella Burani Fashion Group ed evitare al gruppo di moda, gravato da praticamente qualcosa come mezzo miliardo di debiti, di portare libri in tribunale. C'è già una prima udienza il 27 gennaio sull'istanza di fallimento della holding di famiglia, la controllante, che era già in difficoltà da un bel po' di tempo. Tra l'altro è stata ricostruita anche molto bene la vicenda dal collega Fabio Pavesi giovedì 7 gennaio sulle Sole 24 ore. Insomma, quindi vi dicevo, bisognerà capire anche se queste risorse fresche che la famiglia sarà in grado, se sarà in grado di farlo, di portare alle casse della società, saranno in grado appunto di rassicurare le banche, perché certo che con 50 milioni le banche potranno dirsi rassicurate, credo, solamente in parte. Io volevo partire subito con la collega Valeria Novellini, perché Burani, lo dicevo prima, è un caso in piena evoluzione, i titoli sono al momento sospesi, non è detto che vengano delistati, bisognerà vedere appunto come procederà la questione, ma in ogni caso ritornando un po' ad alcuni pezzi che tu hai scritto per il quotidiano qualche mese addietro, e tornando al tema principale poi della nostra puntata, il tema dei delisting, hai scritto qualche mese fa: si sono susseguiti imperterriti a Piazza Affari, cosa è successo negli ultimi mesi? In realtà diciamo che Borsa Italiana ha affermato, il che è anche corretto formalmente, che a fine 2009 i delisting sono stati minori come numero, in quanto 12 rispetto ai 16-18 dell'ultimo biennio, che vi sono stati quindi un numero di delisting inferiori. Il problema è, come sempre, il saldo finale dell'anno, cioè mentre nel 2007-2008 a controbilanciare questi delisting c'era stata anche una serie abbastanza numerosa di nuove ammissioni in borsa, quest'anno di ammissioni al mercato principale di fatto ce n'è stata solo una, che è stata quella di Jux a fine anno. Quindi in realtà quello che più stupisce è il saldo fra società entrate, che sono sempre meno, e società uscite, che sono magari di meno, ma alla fine il saldo delle società quotate diminuisce e quindi il numero delle azioni quotate è sempre inferiore, il che non depone bene per la salute di un mercato, in quanto naturalmente anche il numero delle società quotate è importante. Certo, anche ai fini della reputazione, anche se per fortuna la crescita dei mercati comunque ha tenuto salvo il tema capitalizzazione, Valeria. Quindi questo è un po' il punto. Nel 2008 peraltro ce n'erano stati molti di più ad andare ad analizzare proprio le statistiche di Borsa Italiana, ancora di più nel 2007, quest'anno quantomeno una frenata, anche se il saldo risulta ancora, come ci diceva Valeria Novellini, a favore dei delisting piuttosto che degli ingressi in borsa. Avvocato Bernardi, a questo punto mi serve subito la sua consulenza, perché una società quotata decide ad un certo punto di delistarsi, o chi decide per lei? Le risposte possono essere chiaramente molte, vorrei però affrontare il problema un passo indietro, se mi consente. Certo. Cioè, io credo che ci sia di fondo, in particolare nel nostro paese, un problema anche nella finanza di tipo culturale. Cioè, prima di chiedersi perché si va a delistare una società, forse sarebbe spesso opportuno chiedersi perché la si è listata all'inizio. Il problema vero soprattutto quando ci sono, mi scusi la parentesi, delle meteore, perché si sono verificate anche questi casi clamorosi in certe fasi di borsa, appunto a Piazza Affari, poi magari ce ne ricorderemo anche qualcuno. Certamente sì, questo è altrettanto vero, ma è semplicemente un aspetto del fenomeno che sto evidenziando, nel senso che spesso noi abbiamo, e non sono io a inventarmelo, un capitalismo di tipo estremamente familiare, tradizionale, che a un certo punto si fa, diciamo così, irretire dall'idea che l'accesso al mercato dei capitali sia la soluzione a ogni problema, sia il finanziamento a minor costo di un progetto di sviluppo. Programma che spesso è sano, spesso è meno sano, ma quello che a mio avviso spesso nei listing italiani manca ed è mancato è una reale volontà di andare verso un approccio di public company all'americana, o comunque noto a paesi di economia più avanzata della nostra. Quindi spesso, per arrivare alla sua domanda, perché si va al delisting? Perché è una società in cui un vero flottante, un flottante significativo che giustifichi veramente la presenza di una società sul mercato, non si è mai raggiunto, la società resta di fatto una società di a stretto controllo familiare o comunque di chi la controllava prima, i costi di mantenimento per gli obblighi informativi, per tutto quanto è necessario per adempiere alle normative CONSOB e di legge, sono sicuramente pesanti, e spesso il saldo di queste operazioni è talmente negativo che alla fine è una scelta quasi obbligata per far marcia indietro. E poi ci sono tutte le altre anche operazioni che molto spesso si verificano e che portano una società a delistarsi perché per esempio si è aggregata con un'altra, questo è accaduto per esempio nel comparto delle utilities nel nostro paese, municipalizzate che si sono messe insieme, pertanto diventano un'unica grande società e di conseguenza il nome di una scompare. Oppure ci sono le offerte pubbliche di acquisto che portano pure a inglobare la società in un'altra, avvocato. Certamente, avvocato Bernardi, sono sì. Tutte ragioni che possono portare alla scomparsa, però resta il tema, nella più parte dei casi il delisting di una società viene fatto nel momento in cui, al di là dei casi che lei correttamente menzionava, si percepisce che è venuta meno, e forse si percepisce che non è mai esistita, la ragione vera di portare quella società in borsa. Solamente per dirlo magari a coloro che hanno ancora in portafoglio in questo momento titoli della società Burani e che stanno guardando con un'evidente preoccupazione appunto quello che sta accadendo, quello che potrà accadere, potrebbe essere possibile che la società che adesso è sospesa, lo ricordo ancora dal 28 agosto, potrà succedere che venga delistata qualora si andasse al crack finanziario formalizzato del gruppo, ma potrebbe essere che possa tornare alle contrattazioni prima di un'eventuale dichiarazione di fallimento. Valeria, può capitare anche tutto questo? Allora, diciamo, no, tanto per capire che se ritorna a rivitalizzarsi un portafoglio e quindi se può essere liquidato da parte anche di un piccolo azionista, che gli convenga o meno farlo poi naturalmente. Diciamo che le società attualmente sospese a tempo indeterminato sono 7, di cui Burani naturalmente è una, mentre invece, ecco, è interessante rilevare questo, non è sospesa né lo è mai stata la controllata Antichi Pellettieri. Di queste società, di queste 7 società, per alcune si sa già che non vi sarà sicuramente un ritorno in borsa, ed è il caso di IT Holding e di Trevisan Commetal, che sono già soggette a procedure concorsuali. Altre società aspettano un'OPA residuale, come ad esempio è Everell, che comunque anche questa era in difficoltà finanziarie. Per quanto riguarda Mariella Burani, chiaramente noi non possiamo prevedere l'evoluzione di questa situazione, che prevede comunque una ricapitalizzazione, come già si è detto. Ma ci sono state già società che sono state sospese per un certo periodo e sono state riammesse. Questo è il caso di Snia, che è stata sospesa ad agosto ed è rientrata in negoziazione il 19 ottobre, sempre di quest'anno. Diciamo però che se una sospensione a tempo indeterminato, perché normalmente la borsa fa prima una sospensione a tempo determinato che dura però pochissimo e successivamente passa a quella a tempo indeterminato. Diciamo che non è mai una buona avvisaglia. Non è un buon segno, ma soprattutto se si prolunga per oltre i 3-4 mesi che sono stati il periodo di Snia, la situazione è sicuramente poco promettente per il futuro. Benissimo. È un tema che sta appassionando molto, vabbè, giustamente li ho chiamati per questo, i nostri ospiti di questa mattina di Salvadanaio, e quindi abbiamo un dibattito anche molto vivace, ci fa davvero piacere a microfoni spenti. Allora, le società che vengono cancellate dalla borsa, cosa succede? Noi abbiamo preso a spunto il caso di una società in bilico a Piazza Affari, che è il Maria Laburani Fashion Group, società che è sospesa dalle contrattazioni dal 28 agosto a tempo indeterminato, ed è assai probabile, insomma, che dalle quotazioni non la rivedremo più regolarmente contrattata. Noi speriamo di no, naturalmente, perché ha in portafoglio questo titolo, ma la situazione è molto difficile. Detto questo, avvocato Maurizio Bernardi, molti ascoltatori, adesso ne sentirò un paio a cui ho promesso di intervenire, Marilde da Bergamo e Davide da Prato, ma molti altri ascoltatori ci chiedono, insomma, che cosa succede a chi ha azioni di aziende delistate per le ragioni di varia umanità che abbiamo già spiegato in apertura di programma. Perché le chiedo questo? Perché naturalmente molto spesso queste società incagliano il nostro portafoglio titoli, ed è sono situazioni dalle quali non si può più uscire, perché comunque anche le banche sono assolutamente incapaci di trovare delle soluzioni, non hanno forse le technicality per sciogliere questi contratti. Che cosa succede? Ma anzitutto dobbiamo distinguere tra casi differenti. Quando lei dice azioni delistate, io tecnicamente penso chiaramente alle azioni di una società che ha cessato di essere trattata su un mercato regolamentato, e perché normalmente questo accada devono essere intervenuti dei passaggi obbligati, tipo delle offerte pubbliche d'acquisto, piuttosto che il cosiddetto squeeze out, cioè se chi ha lanciato offerta pubblica d'acquisto raggiunge una certa soglia percentuale, ben oltre il 90%, se ricordo bene il 98%, ha il diritto di acquistare quanto resta sul mercato. Chi ha in portafoglio titoli di una società che abbia un flottante più basso del 5% ha il diritto di pretendere di essere ricomprato dall'azionista in maggioranza. Quindi vi sono in realtà dei rimedi a disposizione del risparmiatore che voglia disfarsi di questi titoli. Il vero problema in realtà nasce non tanto a fronte di un delisting tecnicamente in senso proprio, quanto a fronte di titoli che per fallimenti, le difficoltà finanziarie, c'è tanta gente che ancora ha dei portafogli aperti su Parmalat che non sa. Assolutamente, certo. Quindi azioni di entità che o sono diventate insolventi o che sono state sospese a tempo indeterminato dalla borsa, ciò che rende di fatto il titolo non commercializzabile. Il problema lì è che o si trova il cugino che se le compra e allora uno dice me ne sono disfatto, ma se uno pensa di disfarsene ponendole sul mercato, in realtà ha una vera impasse. Cioè, teoricamente, se si trova un acquirente anche per titoli che non valgono più nulla, il portafoglio titoli si può comprare, liquidare. Certamente un'azione. Mi sembra strano che fallita, il sistema bancario non studi una soluzione per risolvere questi dilemmi, visto che, voglio dire, a parte i crack finanziari clamorosi anche dal punto di vista mediatico, ci sono tanti altri piccoli casi, per cui, voglio dire, non è che sia esattamente una novità per una banca trovarsi a dover gestire un problema di questo tipo. Perché non si trova una soluzione legislativa, regolamentare, non so come definirla? In realtà bisognerebbe imporre per legge l'esistenza di un acquirente di titoli che hanno cessato di avere qualsiasi valore. Che potrebbe essere, per esempio, lo stesso intermediario, e l'intermediario non ha voglia, ovviamente, di imbarcarsi di queste rogne. Però questo entra, come dire, in una scelta di politica economica che non sta a noi ipotizzare, certo. Evidentemente. Perché a volte magari l'intermediario deve anche ammettere di aver suggerito un investimento incauto, quindi rientrano in campo implicazioni un po' complicate, la capisco. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori, cominciando con Marilde da Bergamo, che ci sta aspettando da un po'. Benvenuta a Salvadanaio. Grazie, buongiorno a tutti. Io ho comprato... Può allontanare un pochino la bocca dalla cornetta? Marilde, tranquilla. Può allontanare un pochino la bocca dal telefono, ci sente? No, allora la recupero. Cosa vado meglio? Niente, non riusciamo. Allora adesso la recuperiamo con Gaia Romani, con la mia collaboratrice, quindi la invitiamo un pochino a darci una qualità del collegamento migliore. Davide da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Chiamavo, ecco, siete già stati abbastanza esaustivi sulle casistiche, ho sentito che parlavate. Il problema mio principale, che penso abbiano molti, è riguardo al titolo, un esempio è il titolo Pagnossin, ma altri titoli che, come diceva appunto l'avvocato Bernardi poco fa, ecco, sì, che è stato revocato dal listino, cioè una situazione simile a Lavurani, è stata in difficoltà, poi è stato revocato dal listino dalla Consob. E quindi ci troviamo questi titoli nel portafoglio che non possono essere portati a perdita, come tra l'altro insomma anche le vicende più grosse di Filmatica o Parma, sono tutte incagliate che non ci danno neanche la possibilità di portare in detrazione le oltre perdite. A Pagnossin, Davide, così magari possiamo anche recuperare la storia dal punto di vista della cronaca, si riferisce a qualche storia in particolare? Relativamente proprio a Pagnossin e a Filmatica. Benissimo, la ringrazio Davide. Allora, Valeria Novellini, Pagnossin messa in liquidazione il 24 settembre del 2007, quindi abbiamo una storia ferma da 2 anni. Che cosa faceva questa società? Questa società operava nel settore ceramico ed era anche un marchio piuttosto conosciuto. Diciamo che si tratta uno dei casi, come anche Filmatica, che pure è entrata in liquidazione nel 2005. Si tratta di uno di quei casi in cui si è prima conclamata la crisi finanziaria e poi successivamente il peso dell'indebitamento non è riuscito più a supportare l'attività industriale, che in realtà continuava ad andare. Altrettanto dicasi per Filmatica, che è una delle tante società ammesse al nuovo mercato principalmente. Infatti, il vecchio Nasdaq praticamente, che la prima forma del Nasdaq italiano. Sì, il Nasdaq diciamo italiano. Che sono cresciute per acquisizioni in maniera spropositata, gravando così la situazione finanziaria di un grosso debito che poi si è concluso con la crisi della società. Mentre nel caso di Pagnossin si tratta non tanto di una crisi per acquisizioni, ma proprio comunque di un aumento dell'indebitamento che poi si è tradotto, vista che si trattava comunque di un settore a basso margine, in un riflesso appunto di una crisi aziendale complessiva. Quello che volevo dire in generale ai risparmiatori è quello che può essere utile per chi sospettasse di avere società in pericolo dal punto di vista finanziario, perché se si sa che un settore industriale è in crisi generale, sono cose di cui si parla comunque anche nei telegiornali. Sappiamo tutti, per esempio, che il settore auto, tranne gli incentivi, sta attraversando un periodo non facilissimo. Ma per quanto riguarda la crisi finanziaria, non sempre è così evidente. Allora, la Consob pubblica da tempo una cosiddetta lista nera dei titoli che si trovano in conclamata crisi finanziaria. Attualmente sono 19, tra cui i 7 sospesi a tempo indeterminato di cui vi dicevo. E pubblica da poco tempo anche una cosiddetta lista grigia di cui fanno parte altre 20 società quotate e sono in situazione di indebitamento pesante, ma non ancora in conclamata crisi finanziaria. Ecco, questo elenco è disponibile sul sito della Consob nella sezione emittenti. Ha l'obbligo la Consob di fare questa comunicazione? No, mi pare di capire che lo fa su base volontaria. Sì, volontaria è stata, diciamo, sia l'istituzione della blacklist sia di questa cosiddetta grey list, che serve per dare un allarme ancora più precoce ai risparmiatori. Tanto per capire, Valeria, per esempio intorno a luglio-giugno sulla grey list c'era Mariella Burani? Era già sulla blacklist. Per cui, perché certo, non c'era ancora la grey list, è stata istituita a fine 2009. Ah, perfetto. Ah, addirittura, quindi proprio da pochissime settimane. Sì. Avvocato Bernardi, allora, sicuramente se una società si delista perché il delisting arriva da un'operazione, dall'offerta pubblica di acquisto, quindi una società che è stata comprata da un'altra attraverso queste operazioni assolutamente regolari e trasparenti sul mercato, è un conto, e probabilmente il risparmiatore finale, il piccolo investitore, viene raggiunto da una comunicazione comunicazione da parte dell'intermediario che c'è questa operazione, quindi gli si chiede se vuole aderire o meno e conferire i suoi titoli appunto in queste operazioni. Altra cosa invece sono appunto i delisting che avvengono in altre modalità, come abbiamo detto, e lì, a parte le liste che Valeria Novellini ci ha suggerito di andare a monitorare sulla Consob, e però insomma, cosa dobbiamo fare per avere informazioni su come stanno andando anche queste società più piccole sulle quali spesso capita di investire? Leggere i giornali, siamo d'accordo, ma molto spesso non è sufficiente. Insomma, quali indicazioni anche di buon senso, visto che l'intermediario su questo ancora non è molto, come dire, affidabile, mi passi il termine, dal punto di vista delle informazioni che devono arrivare al piccolo investitore che segue anche come consulenza? Ma veda, qui il tema è ampio, nel senso che le società che vanno in borsa, lei sa, sono tenute a pubblicare un prospetto che nell'intendimento del legislatore e di chi emana i regolamenti che regolano questa materia dovrebbe essere lo strumento iniziale per dare il massimo possibile di informazioni a chi è chiamato a fare un investimento in quella società. Una volta che la società si è quotata, vi è tutta una normativa che obbliga la società emittente a rendere note al pubblico costantemente, e la Consob può anche imporre con proprio provvedimento particolare anche obblighi più cadenzati nel tempo di dare un'informazione regolare al mercato sul proprio andamento. C'è poi, ripeto, un obbligo generale di dare informazione al mercato di tutte quelle operazioni che sono, dice la legge, suscettibili di determinare variazioni del valore di mercato dei titoli. Quindi gli strumenti in realtà ci sono. Il problema vero, a mio avviso, è che da un lato spesso c'è forse non scarsa informazione, ma un eccesso di informazione. Quando penso a prospetti di 300 o 400 pagine al momento del collocamento in borsa di una società, tremano i polsi a tutti, dico, anche a voi professionisti del settore che sapete leggere ogni riga. Per la mia esperienza personale, spesso un eccesso di informazione si traduce in una assoluta assenza di informazione. Paradossalmente, amo dire che preferirei imporre per legge l'obbligo di un prospetto di 20 pagine e che non superi le 20 pagine, che sia redatto in modo tale che sia comprensibile a chiunque abbia una cultura media normale in questo settore. Per poi addirittura si arriva anche al paradosso che ci suggeriscono, per esempio, se facciamo un investimento sul settore azionario, di fare addirittura quasi come a dimenticarcene, perché questo è un investimento che rende i suoi frutti nel lungo periodo, e invece abbiamo scoperto che anche se investiamo nel mercato azionario dobbiamo monitorarlo molto attentamente e costantemente in tempi brevissimi. Quindi insomma, assolutamente un tema sì, che si presta alle considerazioni più ampie, avvocato. Se mi passa una considerazione non tecnico-giuridica ma di normale buonsenso, spesso in questo mondo per il piccolo investitore il fai da te non paga. Infatti. Allora, prima di riprendere il nostro argomento, volevo leggervi una notizia di un'agenzia. Il Tribunale di Milano ha accertato che CNP Vita, partecipata dal gruppo Unicredit, ha avuto un comportamento gravemente lesivo nei confronti di 6.500 famiglie italiane che hanno acquistato per oltre 182 milioni polizze vita collegate a titoli emessi da Lehman Brothers. CNP Vita è probabilmente una società riconducibile a Capitalia, che poi si è fusa appunto con Unicredit. Questa è la notizia diffusa dal Movimento Consumatori in una nota, nella quale si precisa che le polizze, denominate performance, prevedevano espressamente la garanzia della restituzione del capitale, cosa poi non avvenuta. Cercheremo di capire se questo implica appunto la restituzione integrale da parte di questo gruppo alle famiglie che hanno investito in queste polizze appunto del capitale. Evidentemente già dei piani di risarcimento erano stati stabiliti, adesso cercheremo appunto di approfondire meglio la vicenda per darvene poi notizia. Allora, Marilde da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, mi sente bene? Adesso molto meglio, grazie. Benissimo. Allora, io ho comprato in giugno del 2007 azioni Italease a 26,14 euro. Adesso mi ritrovo praticamente con la quotazione di preciso non lo so, ma è sotto l'euro di sicuro. Sì. Allora, dato quando io l'ho comprata, e dato che io abito a Bergamo e la mia banca è il Credito Bergamasco, che sì, fa parte del gruppo Banco Popolare, sì, mi ha detto, ma io non voglio adesso dar colpa alla banca, io non ho, per l'amor di Dio, però la banca poteva sapere che l'Italease, con tutte le vicissitudini che stava attraversando, non era un buon titolo. Io come avrei potuto, le persone come come avrebbero potuto tutelarsi in quel momento. Marilda, allora adesso facciamo il punto sul caso Italise, che è complicatissimo. Anche in questo caso, prima, come dire, del crack, passatemi il termine, sicuramente la situazione di disagio finanziario era nota da tempo. Giugno 2007, a che punto eravamo, Valeria Novellini, e adesso a che punto siamo? Perché la nostra ascoltatrice l'ha comprata ad un prezzo piuttosto elevato e forse il titolo è arrivato anche molto più in alto, credo, per cui magari avrà fatto anche i suoi guadagni, Marilde, credo, però adesso ha un investimento del tutto azzerato e bloccato. Allora, per quanto riguarda la situazione di Italise, diciamo che in realtà è stato uno dei casi che sono esplosi abbastanza all'improvviso, non tanto come preceduti da lunghi periodi di crisi, in quanto purtroppo ci sono state in questo caso malversazioni di coloro che erano alla guida della banca, che sono state scoperte repentino. Scattate anche le manette ai polsi, insomma. Per risolvere la situazione, il Banco Popolare, da cui è controllata Italise, ha effettuato delle offerte pubbliche di acquisto, appunto per togliere dal listino la società. Queste offerte sono state ripetute, ma non si è mai riusciti a raggiungere la quota necessaria per dover procedere obbligatoriamente allo squeeze out, che ricordiamo scatta quando è stato ritirato il 98% delle azioni. Attualmente il Banco Popolare... No, ti interrompo, l'ultima è stata fatta a 1,5 euro operazione. Giustamente, se una persona come l'ascoltatrice ha un prezzo di carico di 25 euro, è chiaro che non gli conviene mai consegnare, aspetta qualche altro miracolo, ma qua temo che non potranno arrivare. Ma diciamo che non può arrivare, intanto perché ovviamente queste offerte sono state fatte in base alla media delle ultime quotazioni immediatamente precedenti queste offerte, quindi è ovvio che non potevano essere di 26 euro, ma soprattutto adesso il Banco Popolare detiene il 91,4% delle azioni ed ha comunque già dichiarato che intende procedere egualmente a un'ulteriore e definitiva, non possiamo chiamarla OPA, ma la ricapitalizzazione è stata già effettuata, ma ricordiamo che è avvenuta a 0,71 euro per azione, per cui evidentemente ci dà un'idea dell'ordine di grandezza della valutazione attuale. Comunque sarà fatta una ulteriore e ultima, chiamiamola OPA residuale, per la residua quota di capitale che è rimasta sul mercato, ma è presumibile che il valore, che sarà comunque determinato dalla Consob, non si discosterà molto da quelli a cui sono state effettuate le ultime operazioni. Offerte. Tra l'altro è a 76 centesimi la quotazione di questa mattina, per cui capisco lo sconforto dell'ascoltatrice. Avvocato Bernardi, tra l'altro l'ascoltatrice si interrogava così sulla possibile responsabilità della banca nel suggerimento di un investimento di questo tipo. Noi abbiamo visto anche negli anni passati, nei casi di grandi crack finanziari, come molte banche siano state anche condannate da diversi tribunali italiani proprio perché l'investimento suggerito non corrispondeva evidentemente al profilo di rischio dell'investitore. Allora, qua non mi pare proprio una sprovveduta, Marilde. Detto questo, però, lei si interroga se sul momento in cui l'investimento le è stato suggerito la banca potesse sapere o meno di una difficoltà in arrivo. Secondo lei le conviene percorrere questa strada, l'ascoltatrice? Non la vorrei proprio far esporre, naturalmente, ma insomma, cosa ci può suggerire anche nell'approccio nei confronti dell'intermediario? La risposta non è chiaramente semplice, in quanto presuppone una conoscenza di fatti nello specifico che, sulla base di quello che l'ascoltatrice ci ha raccontato, non sono evidentemente in grado di apprezzare, e quindi devo limitarmi a un paio di considerazioni d'ordine generale. Certamente in altre situazioni di crack finanziari, e nella misura in cui è stato possibile dimostrare che vi era un comportamento comunque doloso riconducibile ad istituti bancari, nel senso di forzare la vendita di certi titoli per scaricare sul pubblico rischi che erano nei portafogli delle banche, la magistratura in casi del genere certamente ha rinvenuto dei profili di responsabilità. È chiaro che è una valutazione che va fatta nel caso per caso, va fatta sulla base degli elementi specifici. Ecco, per poter rispondere che semplicemente perché una banca ha spinto attraverso il suo personale l'acquisto di titoli di una controllata, di per sé è un titolo di responsabilità, devo escluderlo. Quindi la convenienza ad attivare un'azione di questo tipo in realtà andrebbe valutata molto nel caso per caso. Allora, quindi insomma la nostra ascoltatrice può scegliere due strade: o percorrere questa come abbiamo indicato, oppure aderire all'OPA residuale qualora appunto l'azionista di riferimento formalizzasse l'offerta al più presto. Allora, due ultime considerazioni, chiedo agli ascoltatori di essere telegrafici perché sono comunque considerazioni molto belle, mi rimangono due minuti, per cui Gianni e Sergio dovete veramente fare delle domande al photo finish. Gianni, rapidissimo, grazie, buongiorno da Varese. Buongiorno signorina e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo chiedere all'esperto, in caso di delisting da parte dell'azionista di riferimento che fa un'OPA ai fini del delisting, però lo fa a prezzi molto bassi rispetto al collocamento e uno non aderisce, il risparmiatore non aderisce, che fine fanno le sue azioni? Grazie mille. Grazie Gianni, una domanda che peraltro ci hanno fatto anche tanti altri ascoltatori al numero per gli SMS. L'ultimo, Sergio da Genova, rapido anche lei, grazie. Sì, io volevo aggiungere che per quel che riguarda il delisting è necessario, a mio parere, introdurre dei correttivi, perché il rischio di emittere, si sa che l'investimento azionario è un investimento a rischio, però normalmente non si valuta il rischio del listing quando uno compra delle azioni e se vogliamo davvero tutelare l'afflusso di capitale di rischio alla borsa e ridurre l'intermediazione bancaria, l'unico modo è introdurre dei correttivi che consentano di tener conto del prezzo medio in un periodo più lungo, non gli ultimi sei mesi, non so ora di preciso quale sia. Abbiamo il parametro. Capito, sì, grazie Sergio, ho 30 secondi, li affido all'avvocato Bernardi, sono due considerazioni che richiederebbero un'altra ora di puntata, me ne rendo conto, però allora, delisting per un'OPA, se non si aderisce, che fine fanno i titoli? Telegraficamente si resta azionisti di una società non più quotata e quindi si è azionisti di una società di tipo privato e quindi con la possibilità di cedere le azioni che rimangono in capo all'azionista in minoranza a condizione che trovi un acquirente interessato a comprarle a un prezzo interessante. Chi investe sul mercato azionario, dice Sergio, non ipotizza un rischio delisting, per cui lui dice in sostanza bisognerebbe studiare dei meccanismi di tutela più ampi per i piccoli risparmiatori che poi possono incappare anche in queste vicende, d'accordo? No, nel senso che personalmente non considero un rischio delisting, considero un rischio implicito all'andamento di un titolo quotato, all'andamento della società sottostante, quindi il delisting non è di per sé apprezzabile come tale. Mi scuso perché vi sto rendendo la vita impossibile chiedendovi di chiudere, ma insomma, visto che abbiamo fatto una trasmissione anche su questo argomento, tenetelo in considerazione eventualmente questo rischio, no? Vi abbiamo anche sollecitato, speriamo in misura sufficiente. Mi è piaciuta molto questa trasmissione, io vi rinvito senz'altro a più presto, grazie a Valeria Novellini e all'avvocato Bernardi per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani, vi auguro una buona giornata. Salva Danaio.